aprile, la guerra era di casa, pioveva forte fuori dalla chiesa. La fame era nell'aria, la vita una scommessa, ma il prete continuava la sua messa. Tu col vestito bianco, tu con le scarpe nuove, vi siete detti sì davanti a quell'altare. Insieme per la vita vi siete incamminati, tra il tempo, le promesse e le speranze. La guerra che finiva, i balli americani, l'Italia da rifare con le mani. I 10 alla schedina, i figli all'improvviso, la casa troppo stretta e io che crescevo troppo in fretta. Ma dimmi come si fa a stare come voi insieme per la vita, che a me l'amore quando c'è mi sembra sempre fuoco e invece dura poco. Sarà che anime di razza è un po' che non ne fanno più. Quel 25 aprile ritorna tutti gli anni, e tutti gli anni vi ritrova insieme.